America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. So you write that song? Yeah. All of your songs have heart and soul. No one wants to hear it. It's easier to walk away from it. Songs for your girl? No, we're finished. It's an old song. She's met someone new. You must sing. A sorpresa, Once, il musical che ha avuto un grande successo a Broadway, ha vinto ieri notte a New York i Tony Award, perché ha vinto ben 8 premi per miglior musical, miglior regia, miglior attore, e potrei continuare. E è stata una sorpresa perché alcuni si aspettavano che forse non avrebbe fatto così bene, e avete sentito nello spezzone che vi ho proposto la voce di questa ragazza che ha un forte accento, e un accento cecoslovacco, e la voce del ragazzo, parlano insieme, e un ragazzo irlandese, e ve la riassumo brevemente: una storia d'amore. Questo ragazzo ripara aspirapolveri e poi però gli piace molto cantare, queste sue canzoni funzionano molto bene, si innamora un pochino di questa ragazza cecoslovacca, un'altra ragazza che invece è rimasta a New York. Insomma, la storia va avanti lungo una trama che potrete facilmente immaginare. Il ragazzo irlandese forma una band che si chiama The Hoover Band, il gruppo degli aspirapolveri, e così piano piano va verso il successo. Una storia agrodolce. Perché? Perché poi alla fine, diciamo, le cose con la ragazza cecoslovacca non vanno esattamente come devono andare. Lui torna a New York e insomma questa storia ci lascia con un pochino di amaro in bocca. Approfitto subito del tema agrodolce per parlarvi brevemente, rapidamente, dei mercati che sono andati benissimo. Il Nikkei ha chiuso con un aumento dell'1,9%, l'euro è rimbalzato 1,2639, un aumento dell'1%, petrolio in rialzo, Milano in questo momento è al rialzo, vediamo se continuerà lungo questo passo e chiuderà altrettanto bene. E la spiegazione di questa reazione dei mercati la conoscete: l'aiuto, il piano di aiuti alle banche spagnole, 125 miliardi di dollari in arrivo dall'Europa, e questo è l'aspetto dolce della situazione. L'aspetto agro qual è? Abbiamo le elezioni in Grecia, l'incertezza resta, non è chiaro se a questo punto i mercati decideranno di partire all'attacco di qualche altro paese. Qualcuno così sospetta anche che possa esserci a rischio a questo punto un attacco magari sull'Italia, e dunque ci saranno molte cose da fare. Eccoci, un altro tema, questo è uno dei temi dominanti del musical. Vi dicevo, il musical Once, che ha vinto ben 8 Tony Awards. I Tony Awards sono gli Oscar per il teatro americano, ci sono state naturalmente altre premiazioni importanti per il play, per il teatro. Ha vinto Claiborne Park, un play di grandissimo successo, e poi un altro play, Peter and the Starcatcher. Poi Mike Nichols, grandissimo regista, che ha vinto il Tony per Claiborne Park. Pensate, è uno dei pochissimi artisti ad aver vinto tutti i premi in palio per il mondo dell'arte e dello spettacolo americano. Cioè, ha vinto un Oscar, ha vinto un Emmy Award per la televisione, ha vinto anche il Grammy Award per la musica. Right now one concern is Europe, which faces a threat of renewed recession as countries deal with a financial crisis. Barack Obama oggi si incontra con il segretario al tesoro, meglio ha una colazione fra poche ore con il vicepresidente Joe Biden, la loro solita colazione settimanale. Subito dopo tutti e due si incontreranno con Tim Geithner, segretario al tesoro americano, per parlare naturalmente di economia, per impostare la strategia economica dopo quello che è successo in Europa. Vi ho parlato un po' delle reazioni del mercato, ma naturalmente a questo punto ci sono le reazioni e le impostazioni della politica, e per dare corpo al progetto, al piano americano da presentare al G20. Il G20 sarà esattamente fra una settimana. Vi avevo accennato alle elezioni greche di domenica 17. Insomma, abbiamo davanti a noi un'agenda piuttosto intensa. Questa è una settimana chiave, secondo me, la settimana in cui si potrà definire con sicurezza il progetto europeo, quindi rassicurare i mercati, aprire un nuovo capitolo nella gestione di questa crisi, oppure il rischio è quello di dimostrare nuovamente incertezze e quindi portare nuove turbulenze sul mercato. Per questo c'è un'atmosfera, ho parlato con alcuni operatori questa mattina, ma per questo c'è un'atmosfera un po' agrodolce. Мы победили сегодня и благодаря подавляющей поддержке подавляющего большинства наших избирателей одержали чистую победу. Vladimir Putin, il presidente russo, perché vi ho fatto ascoltare la sua voce? Perché al G20 di Cabo San Lucas in Messico, il Messico ricordiamolo ospita quest'anno il gruppo dei 20, ci sarà un importante vertice bilaterale tra Putin e Obama, sarà il loro primo vertice, il rapporto fra i due è piuttosto freddo e occorre ricordare che al di là della questione economica che ci ha preoccupato in queste ultime settimane, ci sono stati degli sviluppi piuttosto preoccupanti sul fronte della politica internazionale. Siria, Iran, la Russia continua a tenere una linea piuttosto dura su entrambi i dossier, l'America vorrebbe una svolta, dunque in questo vertice sicuramente si discuterà di Siria e Iran. Che cosa è successo? Beh, nel corso del fine settimana i negoziatori con l'Agenzia Atomica Internazionale hanno rotto i rapporti con l'Iran, non sono riusciti ad andare avanti per concordare delle ispezioni e dunque un vertice importante che doveva avvenire a Mosca proprio a cavallo del G20, il 18 e il 19, è stato cancellato. Siamo punto a capo, ci si preoccupa perché forse Netanyahu, il primo ministro israeliano, potrebbe a questo punto sposare la linea dura. Lui aveva accettato di concedere tempo alla Casa Bianca, però i risultati per ora non ci sono. Sul fronte siriano gli attacchi continuano, altri 17 morti, insomma una situazione disastrosa. Gli ispettori dell'ONU sono a rischio, dossier dunque molto molto fitti per questo G20, sia sul piano economico che su quello politico. Chiudo con una notizia piuttosto triste dall'America, una sparatoria in Alabama alla Università Auburn, vicino all'Università Auburn, e tre giovani sono rimasti uccisi, tre giovani tra l'altro, due dei quali facevano parte della squadra di football americano, quindi erano due star locali, grandissima tristezza in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Herb Reed, l'ultimo dei Platters, ci ha lasciati all'età di 83 anni ed è a lui e a questo indimenticabile gruppo degli anni 50 che dedichiamo la canzone del giorno, dei Platters, Only You. Only you can to make all this world seem right. My dream come true, my one